Mi piacciono le improvvisazioni, non sono le improvvisazioni, è un'improvvisazione per me, ma per Dio è tutto sempre bello, chiaro, preciso. Allora vado subito, così recupero i 3 minuti. Facciamo un piccolo viaggio nel tempo indietro, quindi nel passato, non nel futuro. Io posso provare ad andare nel passato, nel futuro devo ancora attrezzarmi. Quindi fatelo con me, non andiamo lontanissimo, andiamo a 2 mesi fa. Molti di voi probabilmente erano qui, molti come me probabilmente erano a casa, davanti ad uno schermo, io ero insieme al Covid, stava accanto a me, dentro di me. E il pastore da questo palco pronunciava una parola potentissima, che suonava, riassunta, in questa frase qui. Ve la ricordate questa predicazione? Ve la ricordate questa frase? Questo è, come dire, un bel pensiero che ci è stato proposto nel mese di gennaio, come sempre oramai accade da un bel po' di tempo, per poterci dare una visione. Quindi cos'è una visione? Una direzione chiara su come vivere l'anno. Come chiesa, ovviamente quando ci pensiamo come chiesa, ovviamente consideri anche te stesso. Faccio una piccolissima parentesi, dobbiamo essere grati a Dio che il pastore, non so quando, a dicembre, diciamo così, o il 1° di gennaio, si ferma e chiede: Signore, ma tu cosa vuoi per la Chiesa quest'anno? Questa chiarezza, questa direzione che Dio ci dà oramai, anno per anno, deve essere per noi un punto di forza. Altra cosa è andare a vanvera. È sempre parola di Dio, è sempre tutto ciò che faremo buono, ma quanto vi fa sentire più sicuri quando qualcuno vi dice: senti, per andare da qui a Bari devi fare via Roma, segui la direzione, poi c'è una freccia, gira e poi da lì sei arrivato già sulla provinciale per Bari. Piuttosto che per andare a Bari, allora se vai destini, prova a girare da quelle parti, è da quella zona lì, so che da quelle parti sta Bari. Cioè, già dicevo che vabbè, mi perderò, già lo so. Stessa cosa per la Chiesa, avere una visione chiara, e quindi grazie pastore per il tempo che, non so come Dio ti dica queste cose, però a me personalmente fa piacere sapere che quest'anno io devo incentrarmi su vivere delle giornate, quindi un oggi, in vista dell'eternità. E così passato il Covid, più o meno il 20 di gennaio, per me iniziava l'anno. Perché insomma, fino da quel momento, da che è iniziato l'anno, perché mi sono beccato il Covid, il 31 diciamo così, l'anno non era ancora iniziato. Ed io ero carichissimo proprio per vivere le mie giornate cariche di eternità. Però poi mi sono scontrato con i miei limiti caratteriali. Mi sono scontrato con la mia incapacità di previsione e di controllo. Mi sono scontrato anche con una non sempre comprensibile volontà di Dio. E poi ho avuto a che fare con, come si chiamano, aspetta, le persone, le conoscete voi le persone? Le mie giornate non sembravano assolutamente in vista dell'eternità. Cioè io dicevo, no, allora c'è qualcosa che non va. Se questa è una prospettiva dell'eternità, io non ce la posso fare. E allora ho detto, no, sto sbagliando. Sicuramente Dio non ha sbagliato, sto sbagliando io. E mi sono fermato e ho detto: Signore, facciamo così. Io sono certo che nella tua parola ci sono principi di eternità. E allora me li riveli, perché io voglio vivere le mie giornate in prospettiva dell'eternità. Oggi ne prendiamo uno di questi principi, quello che poi nelle ultime settimane mi sta proprio tartassando. Per me è difficile perché è un processo in divenire ancora, è una grande sfida, quindi vi apro un po' il mio cuore. E lo leggiamo, questo principio ovviamente nella Bibbia, in Filippesi 2, versi 3 e 4, ho voluto mettere le due versioni, cioè ci sono due versioni, c'è la versione quella più comune che leggiamo e poi c'è la versione amplificata, così chiamata, perché come vedete fra parentesi ci sono delle parole aggiunte. Specifico, non stiamo contravvenendo a quello che c'è scritto nella Bibbia, che nessuno deve aggiungere o togliere parole. Vedrete, non c'è nessuna modifica nel significato, è semplicemente che ci rende un po' più comprensibile e pratico quello che a volte ci sfugge. Leggiamo la versione quella comune che tutti quanti abbiamo sull'app o sulla nostra Bibbia. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Non fate nulla per egoismo o per vana presunzione, ma con un atteggiamento di umiltà. Io sono umile. No, lo devi far vedere che sei umile. Ecco, mi piace cosa aver aggiunto, un atteggiamento di umiltà. Qual è l'atteggiamento di umiltà? È specificato, non essendo né arrogante né ipocrita, considerate gli altri più importanti di voi stessi. Non badare solo ai tuoi interessi personali, ma anche a quelli degli altri. Ora vi chiedo, con questi occhiali da sole, con questi filtri davanti agli occhi, cioè questi versi appena letti, seguitemi in questo discorso, perché altrimenti dice, ma Luigi che cosa vuole oggi? Con gli Upside Down qualche settimana fa dicevo questa cosa. Noi abbiamo un piccolo difetto. Riusciamo ad essere egoisti anche sui migliori propositi. Io mi sono reso conto di quanto posso diventare egoista ed egocentrico nel mio percorso di vita cristiano. Divento molto pratico. Signore, più dello Spirito Santo, perché io voglio essere una persona potente, io voglio essere una persona forte, io voglio essere una persona migliore, io voglio vedere la tua mano in azione nella mia vita, io voglio più fede perché voglio vedere le tue opere compiute nella mia vita, io voglio di più della tua parola in me, perché quando mi carico della tua parola io vivo meglio, io sono gioioso, io sono pronto ad affrontare il mondo. Giusto, non sto dicendo che sia sbagliato. Però è un tantino pericoloso, perché tutto questo potrebbe diventare un po' troppo chiuso in una dimensione del personale. Mi sto creando la mia cristianità, mi sto creando la mia situazione, quella situazione in cui sperimento Dio, conosco Dio. Ma se andiamo per bene a leggere la Bibbia, ci rendiamo conto che Dio ha pensato il percorso cristiano di fede in una prospettiva completamente diversa. Dio dice, vi darò Spirito Santo e la manifestazione dei doni dello Spirito Santo, il frutto dello Spirito sarà in voi, per il beneficio degli altri. Inevitabilmente starò bene anch'io, ma il fine per cui Dio dice io vi riempio di Spirito Santo è per qualcosa che va a beneficio dell'altro attraverso di me. Dio sicuramente vuole darmi più fede, ma quella fede non mi serve tanto per poter vedere Dio che risponde alle mie preghiere affinché mi risolvi i problemi e la vita mia. Dio vuole che io abbia più fede, affinché io lo possa riconoscere per chi lui è, perché questo poi è il mio limite. Non riesco a credere che Dio è sempre con me, non riesco a credere che Dio è davvero il Dio dell'impossibile. Ecco perché ho bisogno di più fede, non perché io devo vedere Dio che opera e mi sistema la vita. Siete riusciti a cogliere questa sfumatura? È molto essenziale. Perché? Perché ogni volta che noi diventiamo un po' troppo autoreferenziali, quindi un po' troppo io, il diavolo trova un terreno fertile per incominciare a venire, suggerire al nostro orecchio, Dio non ti sta rispondendo, Dio mi sembra che non ti ascolta più, Dio mi sa che si è dimenticato di te. Perché io sto facendo richieste da una posizione che mette me al centro. Ad un certo punto, quando ho preso questa cosa per me stesso, mi sono detto, ok Signore, uno, ti chiedo perdono, perché questo è il mio limite, è il mio peccato comune, quello che ripeto facilmente, dove pongo io me stesso in una posizione di controllo, in una posizione di maggiore accentramento degli interessi e dei miei bisogni davanti a te, e voglio che le cose vadano come io te le sto suggerendo, e quando le cose sembrano che non vanno come io le voglio, lì incomincio a ribellarmi. E Dio mi ha detto, Luigi, ma tu sei parte di che cosa? Sei parte della chiesa di Luigi? O sei parte della Chiesa di Dio? E lì mi si è aperto come dire, la mente. Noi siamo chiesa fondamentalmente per due motivi. Uno, ci accomuna un destino, voglio che questa frase possa essere proiettata. Uno, ci accomuna un destino comune, l'eternità. E su questo ci siamo, vero? Ma ci accomuna anche il cammino verso l'eternità. Io mi sono reso conto che stavo perdendo l'occasione di vivere giornate dal valore eterno perché stavo conducendo una cristianità singola, da solo. Quando mi chiudo in me stesso, quando cerco di stringere Dio nei miei limiti, inevitabilmente io perdo il fine ultimo, grandioso, dell'eternità, la famiglia di Dio davanti alla presenza sua, la sua famiglia, e non soltanto Luigi. Non so come la immaginate voi, però a volte mi sono reso conto che immaginavo l'eternità io e Dio, e dietro niente, nessuno. Ancora pensate che dovete stare pure voi dietro a me? No, in realtà non sarà così, non ci sarò io e Dio. Forse in qualche giorno, non lo so, mi darà un appuntamento singolo. Ma saremo tutti quanti, e non soltanto noi, cioè sarà, non so, secondo me saremo a sgomitare, beh, no, scherzo. Questa è la prospettiva dell'eternità. Allora ho detto, se le mie giornate devono essere piene di eternità, Dio lo permette, lo può permettere, se io mi inserisco nei suoi modi, nei suoi pensieri, nelle sue procedure e non nelle come io vorrei che le cose vadano. Quando sono da solo, in fin dei conti, io dico sempre che da solo sto bene, ed è vero, perché tutto diventa molto facile. Però in quella solitudine nel senso dove non ho a che fare con nessuno, io credo che sto sperimentando ben poco di Dio. Fate caso al frutto dello spirito, stiamo parlando con i bambini di frutto dello spirito e riflettevo proprio su questo, come gli elementi che compongono il frutto dello spirito in realtà non siano funzionali a rendermi una persona migliore, con un carattere e una personalità bellissima, ma sono a beneficio anche questi dell'altro. Faccio un esempio, la mansuetudine, qualcosa con che io devo sempre un po' combatterci, cioè nel senso la voglio, però il mio istinto è un altro. Il frutto dello spirito che produce in me mansuetudine non è che crea in me quella mansuetudine perché io possa restare imperturbato davanti alle situazioni e alle persone e dire io sono mansueto. No, lo Spirito Santo mi rende mansueto affinché io possa accogliere quella persona. Piuttosto che allontanarla, piuttosto che inveire, io possa accogliere quella persona, farla sentire amata, farla sentire accettata, proprio come Gesù, da umile e mansueto, mi accetta. Abbiamo cantato prima, non ti vergogni di me. Questo è Gesù, ci accoglie. E io che voglio essere mansueto come Lui, devo comprendere che lo Spirito Santo mi rende mansueto, ma per poter accogliere proprio le persone, quelle che mi danno fastidio. Scusatemi se lo dico proprio così. Questo è il fine del perché siamo potenziati, siamo riempiti di Spirito Santo, affinché io possa diventare strumento nelle mani di Dio. Lo utilizziamo sempre questa immagine, ma che significa se non ok, vai, accogli, stai, proprio dove ti è difficile, proprio dove sai che vai in crisi, e lì sperimenta tutta la potenza di Dio, e lì sperimenta tutto il bene che c'è nell'affidarti a Lui. Quando ho incominciato a pensare un attimo alla Chiesa, mentre mi preparavo, io mi sono reso conto che ed è buono, la Chiesa si evolve, diciamo così, si rende contemporanea su molti aspetti, ed è giusto, a me piace una Chiesa che sia contemporanea nella comunicazione, nei modi di fare, nel modo della musica, così come anche la comunicazione proprio quella verbale, Però ci sono alcune cose sulle quali noi non possiamo mettere le mani, diciamo così. Proprio sull'identità della Chiesa noi non possiamo toccarla. E mi sono reso conto che fondamentalmente la Chiesa, oggi, e non parlo quindi solo Chiesa pieno Vangelo, quindi noi qui presenti, però anche noi non ne siamo esenti, un po' è diventata l'assembramento. Poi una parola che è diventata comunissima ora negli ultimi anni. Noi non siamo un assembramento di individui accomunati da interessi e bisogni e da un amore per Gesù. Noi siamo una comunità. Non so chi ha mai sentito questa parola legata alla Chiesa. È una parola in disuso. Però in realtà l'identità della Chiesa è quello di essere una comunità. Dio ci ha pensati come comunità. Che cos'è una comunità? Un insieme di persone legate da relazioni e vincoli. Nel nostro caso, le relazioni e i vincoli che ci tengono uniti sono della stessa natura, della relazione, del vincolo che ci tiene unito a Dio in Cristo Gesù. Me la ripeto questa cosa. La relazione che mi lega con te, il vincolo che io ho con te, è della stessa natura della relazione che io ho con Dio. La mia relazione con Dio è una relazione di amore puro. Il suo, nei miei confronti, è certamente più puro. Il vincolo che unisce me a Dio è un vincolo indissolubile. Lo stesso amore, lo stesso vincolo deve unire me a te. Ben qual dunque? E vi faccio una domanda. Tu, personalmente, ti senti amato da me? E non sto scherzando, è una domanda seria. Personalmente, ti senti amato da Luigi? Perché se così non è, io, Luigi, sto mancando qualcosa nella prospettiva eterna di Dio per la Chiesa. Se non ti senti amato da Luigi, Luigi sta sbagliando necessariamente in qualcosa. E immaginate se noi dovessimo incominciare a farci questa domanda l'un l'altro, dandoci grazia, senza puntando il dito. Io non sto parlando di quella volta che tu mi hai detto che, o di quella volta che mi hai fatto questo, non è questo. Lì siamo a livello del terreno, del materiale. Io sto parlando di quell'amore che ci unisce in Cristo Gesù. Se incominciassimo a doverci chiedere l'un l'altro, ti senti amato da me? Che cosa ne verrebbe fuori? Io spero che questa domanda ti mandi profondamente in crisi come ha mandato in crisi me. Perché lì ho capito che stavo giocando a fare la famiglia di Dio. Lì ho capito che io volevo vedere l'eternità, ma non ero pronto per l'eternità. L'eternità è con te che la devo vivere e tu la devi vivere con me. E su questa terra abbiamo il tempo necessario per sperimentare la redenzione, la santificazione, la consacrazione, ma anche tutto ciò che riguarda la nostra relazione reciproca. Io sapete dove mi santifico? Dove mi sento maggiormente consacrato, dove mi sento maggiormente messo in gioco e poi trasformato, quando sono con voi. Ecco perché, mancando questo, mancando l'essere comunità, noi ci siamo purtroppo chiusi in una dimensione personale della cristianità, dove la nostra fede diventa piccolina. E non so sinceramente quanta eternità ci sia in un percorso di fede così solitario e singolo. Io so invece che c'è tanta eternità in un percorso di fede comunitario. Perché lì posso vedere un'immagine in prospettiva di quello che sarà quel giorno glorioso quando saremo tutti insieme davanti a Dio. Pensa che il tempo di adorazione che abbiamo avuto prima è una sfumatura già importante di quello che faremo insieme quel giorno. Pensa che quando ci fermiamo a pregare l'un l'altro, noi creiamo quel profondo accordo l'uno con l'altro e ci avviciniamo l'uno all'altro e riusciamo ad avere le prospettive di Dio sulle nostre vite e sulle cose intorno a noi. Pensa a quando ci ascoltiamo che cosa succede. Pensa a quando sei in grado di fare un passo indietro se si tratta di dare onore a te stesso e di fare un passo in avanti quando devi dare onore a qualcun altro. Pensa a quanto amore si rivela in quel caso. Deve essere volontà comune di tutti quanti noi saper accettare che qualcuno ci venga a dire: sai Luigi, hai sbagliato. Mi sono reso conto che quando do la possibilità a qualcuno di dirmi che ho sbagliato, io con quella persona creo una maggiore fiducia e un più profondo senso di rispetto. Questa e tante altre cose è la comunità. Io sono certo che in questo istante lo Spirito Santo ti sta dicendo in maniera specifica in che termini tu devi intervenire, dove devi cambiare, dove devi aprire la porta allo Spirito Santo affinché lui possa incominciare a cambiarti da dentro per poter essere elemento fondamentale di questa comunità. Gli diamo un minutino di tempo allo Spirito Santo? Chiudi i tuoi occhi e stai semplicemente un attimo con lui. Grazie Spirito Santo perché tu sai come parlare al nostro cuore, sai come toccare i tasti giusti, sai come guarire, sai come rinnovare, sai come darci una visione più ampia del senso del perché siamo qui questa mattina, la tua presenza, del perché siamo parte di questa Chiesa. Io prego che la tua parola possa ancora trasformare i nostri cuori e portarci a vivere tutta la benedizione che c'è nell'essere stati chiamati ad essere parte della tua famiglia. Quando la Chiesa è stata inventata, diciamo così, Atti 2, delle persone c'è scritto che andavano insieme concordi al Tempio. Ora, non significa che si erano messi d'accordo tutti quanti e si erano dati appuntamento alle 10 lì al Tempio. Si erano messi d'accordo. Questa concordia, altra parola sconosciuta, in realtà è l'aggettivo che sembra essere più comune nella parte poi anche delle epistole. L'Apostolo Paolo la utilizza tantissimo, siate concordi, che definisce una caratteristica fondamentale della Chiesa. Che cos'è la concordia? È una conformità, quindi stessa forma, stessa un'armonia di voleri, di pensieri, di sentimenti, di opinioni che mette insieme delle persone, che non è disgiunta da affetto reciproco, che parla di armonia spirituale, che ci parla di accordo. Da vocabolario, non mi sto inventando le cose. Vai sul vocabolario e trova la parola concordia. Questa descrizione, secondo voi, non trova la più bella manifestazione nella Chiesa? La concordia è ciò che deve caratterizzarci. Sui voleri, sulle opinioni, molto spesso è un grande scontro, perché io la penso in una maniera, tu la pensi in un'altra, però come si può arrivare ad avere accordo in questi termini, se non sviluppando un'armonia spirituale? E l'armonia spirituale si sviluppa quando noi siamo insieme. Siamo insieme alla presenza di Dio, siamo insieme in preghiera, siamo insieme a combattere le battaglie, siamo insieme a gioire anche. Siamo insieme a farci delle sane chiacchierate. È importante che ci facciamo sane chiacchierate. Specie in questi tempi dove le chiacchiere che potremmo fare con le persone sono sempre abbastanza tragiche e non per non riconoscere la realtà che ci sta intorno. Però ogni tanto creati anche uno spazio dove puoi fare delle chiacchiere sane. Fa molto bene. E io credo che noi, fra di noi, possiamo diventare promotori di chiacchiere sane. Incomincio a pensare che ti riempi della parola di Dio, non soltanto perché deve far bene a te, non soltanto perché parla di chi tu sei per Dio, di chi Dio è per te, ma che ti riempi della parola di Dio affinché tu possa benedire l'altro. E quando incomincerai a far chiacchiere con le persone, incomincerai a proferire le parole di Dio. Quelle sì che sono chiacchiere sane. Questo ci mette insieme, ci fa diventare concordi, e nel momento in cui saremo concordi, nel momento in cui vivremo concordi questo cammino su questa terra, io sfido chiunque altro e sfido me stesso in primis a dire: e vediamo se non guardi alla prospettiva eterna davanti a te, vediamo se l'eternità non ti si apre davanti. Perché lì c'è concordia. E non è qualcosa però che la Bibbia prospetta solo per quel giorno, la Bibbia ce la propone oggi, la concordia. E io allora, a questo punto, se devo vivere le mie giornate in vista dell'eternità, voglio vivere concordia con voi. Fra un po' avremo la cena del Signore, il pastore ci guiderà in questo tempo, però io voglio che arriviamo a quel momento con questo verso, con questi versi. In questo sta l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ci ha amati e ha mandato suo Figlio come propiziazione. Ne parlavamo a casa l'altro giorno, che questa parola non si capisce tanto bene. La versione amplificata, tra virgolette, mette: cioè il sacrificio espiatorio, l'offerta soddisfacente. Gesù è per te e per me. Sacrificio espiatorio, cioè quello che cancella, che paga il posto tuo e che soddisfa l'esigenza di Dio di giustizia contro il peccato e placa la sua ira. Questo è Gesù. Sapete chi è Gesù? Quello che permette a me oggi di stare su questo palco, quello che permette a te di stare seduto su quella sedia. Perché diversamente non ci sarebbe posto per noi. Per noi non ci sarebbe assolutamente una chance, un 0,001% di probabilità per poter stare davanti a Dio, non ci sarebbe. E Gesù ha conquistato per noi questa cosa fuori di testa. Perché? Continuiamo a leggere. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati in questo modo incredibile, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio, ma se ci amiamo con interesse disinteressato, Dio dimora in noi e il suo amore, che è la sua essenza che dimora in noi, si compie e si perfeziona in noi. Che cos'è l'eternità se non davanti alla presenza di Dio? E che cos'è l'eternità ora in questo istante se non la dolce ma santa, unica, temibile presenza di Dio? Io credo che noi oggi qui stiamo vivendo una porzione importante dell'eternità. E la sperimento pensando a Dio, per quello che Lui ha fatto per me, ma la sperimento nel momento in cui io mi porto ad amarti. Perché quando io ti amo, sto vivendo l'essenza di Dio. In 1 Giovanni è scritto che Dio è amore. Vuoi conoscere l'eternità? Vuoi sapere che cos'è l'eternità? Incominciamo ad amarci. Facciamo questo patto. Dio ha fatto un patto con noi. Lui è il Dio del patto. lui nella sua natura ha questa caratteristica pattizia, strana come parola. E lui ha fatto un patto che ci porterà con lui. Gesù tornerà e ci porterà. Ma al tempo stesso ci chiede di fare un patto anche fra di noi. Ed è un vincolo. Ed è un vincolo eterno che non si rompe. Io e te chiamati all'eternità insieme, ad amarci l'un l'altro e ad adorare il nostro Dio e a conoscerlo sempre di più e ad affrontare qualunque cosa sia la vita qui su questa terra nella prospettiva che in realtà stiamo andando verso un giorno di grande gloria. Ma già oggi è tanto glorioso, già oggi è tanto unico, già oggi è tanto eterno per il fatto che siamo insieme e vogliamo essere ancora di più. Vi invito ad alzarvi e vorrei... C'è il Covid, non lo possiamo fare, altrimenti vi avrei chiesto di prendervi tutti quanti per mano. Ma facciamo che con il cuore ti prendi per mano con la persona che ti sta vicino. E spero che la persona che ti sia vicino sia una persona che non conosci. Perché quella persona che non conosci è comunque parte di te. Signore, noi veniamo davanti a te, umili, indegni. Non è per nostro merito, non è per quello che possiamo fare o per quello che possiamo tentare di creare. Però io so che tu sei quel Dio di amore, quel Dio di potenza, quel Dio di redenzione, quel Dio che rende nuove le cose completamente dalla base. E io prego, rinnovaci. Rinnovaci come Chiesa, rinnovaci nella relazione l'uno nei confronti dell'altro. Portaci ad essere strumenti di benedizione, di incoraggiamento, di aiuto, di sostegno, l'uno per l'altro. Portaci ad essere promotori, motivatori l'uno per l'altro, a correre questa gara e a non mollare fino alla fine, anzi, accelerando ancora di più il ritmo. Io prego, Signore, per una nuova rivelazione di chi è la persona che sta alla mia destra, la persona che sta alla mia sinistra, che insieme possiamo vivere tutta la pienezza di quello che hai conquistato per noi, Signore Gesù. Questa è la conquista che tu hai fatto per noi su quella croce e noi vogliamo che nulla vada perso di quello che tu hai conquistato per noi, le nostre vite messe insieme per la gloria tua e per la benedizione dell'altro. Aiutaci in questo, Signore, aiutaci a crescere, cambiaci ancora e mettici nella libertà di poter mostrare che cos'è l'eternità, qui, subito, ora, da questo momento. Nel nome tuo santo Gesù preghiamo.